Il giudizio è che si è pagato un prezzo troppo alto negli ultimi giorni del negoziato pur di avere, seppur positivo, però pur di avere il voto favorevole di alcuni governi ostili come Stati Uniti, Canada, Australia e Gran Bretagna. Il prezzo pagato è stato quello di togliere dalla dichiarazione, secondo me, tre riferimenti importanti, anzi fondamentali, per dotare questa dichiarazione e quindi la FAO di strumenti concreti per lottare contro la fame nel mondo. Il primo è il fatto che non c'è più menzione del 2025 come anno entro il quale sradicare totalmente la fame nel mondo. Il secondo è che non c'è nessuna menzione ai 44 miliardi di dollari all'anno richiesti da DIUF per sostenere le politiche in agricoltura e in alimentazione. E il terzo è che non c'è una parola chiara rispetto a chi dovrà gestire le politiche e soprattutto le risorse. La Banca Mondiale, sostenuta dai G8, che oggi non sono qui, non sono a questo vertice con i loro leader, e dall'altra parte i paesi in via di sviluppo e la società civile, che dicono la gestione delle risorse e la definizione delle politiche non può che essere affidata alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate, per il semplice fatto che è solo in questi ambiti dove anche i paesi del sud del mondo hanno una voce in capitolo. In mancanza di interventi precisi dei governi, spesso sono sempre più le organizzazioni non governative che risolvono poi sul posto il problema della fame. In che modo? Intanto questa è una realtà sia per le ONG del nord, ma soprattutto sempre di più per le organizzazioni della società civile e le ONG degli stessi paesi poveri. L'80% della produzione agricola è oggi prodotta da piccoli agricoltori, molto spesso raggruppati proprio in queste organizzazioni che noi ONG del nord sosteniamo, proprio convinti del fatto che appoggiando l'agricoltura a scala familiare e non le politiche di esportazione e di nuova colonizzazione delle grandi multinazionali ci possa essere una vera soluzione a questo dramma della fame. Non a caso la dichiarazione del forum della società civile parallelo al vertice della FAO ha richiesto a gran voce, unanimemente, che il principio da adottare sia quello della sovranità alimentare, cioè il diritto di ogni popolo, di ogni paese, a definire le proprie politiche, a decidere i modelli produttivi, a decidere come garantire il diritto a cibo ai propri cittadini.